ancora forte, giochi solo sola o giochi ancora un po' con me. E come a mosca cieca, vinci e non ti trovo, forse cerco quella che non c'è. Ridi di chi bacia il culo alla sua morte, non ho visto niente io. E tu dici di aver visto, sempre troppo forte, sempre accesa la tua spia. E lavori ancora ad ago modo tuo. Niente più uguale. Chi è stata qui? Chi è stata qui? Niente più uguale sarà mai. Giochi in mezzo ai giochi di tutti gli idioti che ha risposte facili. Giochi e vuoi che rida, il test è negativo. Giochi a farmi dire sì e lavori sempre d'agonia.